Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera parliamo di razionalità nell'economia, il libro di un premio Nobel, Werner Schmidt, fra teoria e analisi sperimentale, uscito per le edizioni dell'Istituto Bruno Leoni. E delle edizioni di Bruno Leoni abbiamo in linea il direttore dell'Istituto, Alberto Mingardi. Buonasera Mingardi. Buonasera. E con noi abbiamo anche il professore Francesco Guala, professore di economia all'Università Statale di Milano, che di questo libro ha scritto la prefazione. Buonasera, professor Guala. Buonasera. Allora, innanzitutto, Mingardi, perché avete scelto di pubblicare questo testo, che è il terzo libro di Werner Schmidt? È un libro più vasto tra quelli che Schmidt ha scritto, meno scientifico, più divulgativo. Perché avete scelto di pubblicarlo? Innanzitutto ci sembrava appropriato e interessante colmare un vuoto e rendere finalmente disponibile un libro di Werner Schmidt da copertina a quarta di copertina al lettore italiano. Questo libro rientra molto nei sentieri di ricerca, negli interessi dell'Istituto Bruno Leoni, perché la grande tradizione di pensiero cui Schmidt si riallaccia è quella di Adam Smith, di David Hume, più vicino a noi nel tempo di Friedrich von Hayek, una tradizione alla quale Smith dà un contributo assolutamente originale, basato sull'originalità del suo approccio di economia sperimentale, che porta nuovi e forti argomenti a favore della tesi che vede nel mercato il luogo privilegiato della cooperazione sociale. Ecco, quindi Werner Schmidt è un cantore del mercato, un economista che difende il mercato, così come l'hanno difeso quelli che appunto Mingardi citava, da Schmidt a Hayek. E quasi come un paradosso, il professor Guala nella sua introduzione sottolinea che Werner Schmidt si ricollega a questa tradizione, ma non cita praticamente mai Hayek. Allora, professor Guala, come si colloca il pensiero di Werner Schmidt? Ma no, in questo libro in realtà Hayek viene citato molto. No, il paradosso è che in realtà nella produzione precedente di Schmidt, fino a circa una decina di anni fa, Hayek non compare quasi mai. E ci sono varie spiegazioni. Una è quella che, per esempio, Hayek era stato molto categorico nel negare che si potessero fare esperimenti in economia, e Schmidt semmai aveva dimostrato il contrario nei suoi studi. Poi c'è stata questa riscoperta di Hayek, che si accompagna anche alla riscoperta di altri classici del pensiero economico e filosofico, come appunto l'altro Smith, Adam Smith, come David Hume, e appunto che hanno prodotto questo mix molto strano, ma anche molto stimolante, entusiasmante per certi versi, fra quello che possiamo imparare dallo studio dei mercati in laboratorio e quello che possiamo imparare invece con uno sguardo più ad ampio raggio sull'evoluzione delle istituzioni economiche e sociali in generale. Ecco, ma parlare di analisi sperimentale, di economia sperimentale, come fa Werner Schmidt, che è considerato peraltro il fondatore di questa teoria, non contraddice un po' in fondo anche una visione attuale di un'economia in cui sembra prevalere l'irrazionalità più che la razionalità, sembra prevalere il fatto della sorpresa? In fondo l'ultima crisi, si dice, non era stata prevista dagli economisti, perché è una crisi che è nata da fattori più irrazionali che razionali. Allora, qual è l'attualità di Werner Schmidt? Qual è questo messaggio, professor Guala? Sì, allora, è una domanda complessa. Il messaggio dell'economia sperimentale nel corso degli ultimi 30 anni è un messaggio un po', ci sono due facce. Uno è che effettivamente l'irrazionalità è molto importante per capire le decisioni individuali. L'altro è quello che in realtà molte di queste apparenti irrazionalità a livello individuale poi scompaiono o perlomeno vengono in qualche modo trasformate a livello aggregato da dei meccanismi istituzionali, quali appunto lo scambio di mercato, che trasformano questi comportamenti individuali, magari individualmente non razionali, però in una razionalità superiore, che è quella che Werner Schmidt chiama razionalità ecologica. Detto questo, Schmidt stesso non è che sia perfettamente convinto che i mercati funzionano sempre bene, che non si può far nulla per migliorare il funzionamento dei mercati e così via. Anzi, una delle conseguenze più importanti dell'economia sperimentale è stato proprio quello che oggi viene chiamato il disegno ingegneristico di nuove forme istituzionali di mercato che possano in qualche modo supplire ai difetti che le istituzioni di mercato che si sono evolute in maniera spontanea indubbiamente hanno. E Smith è stato un precursore anche qui, ha studiato per esempio l'emergere delle bolle speculative in laboratorio prima di chiunque altro, quindi insomma diciamo che è un messaggio complesso. Certo, è un messaggio certamente che aiuta a comprendere l'economia, e qui vorrei chiedere ad Alberto Mingardi se forse non è un po' troppo ambizioso, quasi temerario, chiedere agli economisti non solo di interpretare la realtà, ma anche di prevedere il futuro. In fondo i mercati si sviluppano certamente con delle logiche che possono essere capite solo dopo che queste logiche sono sviluppate. Alberto Mingardi. Prevedere il futuro non è cosa a portata degli esseri umani, ovviamente uno fa delle ipotesi di lavoro, si possono cercare degli indizi, si possono sviluppare dei ragionamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, è molto importante, credo, sottolineare, lo faceva molto bene il professor Guala poc'anzi, che il modo in cui Vernon Smith ragiona, il suo approccio ai problemi, forse fa davvero parte di quegli antidoti che possono essere somministrati alla scienza economica per non ricadere in una forma di hybris. Questo vale sia per l'approccio sperimentale, per l'interesse a testare alcune ipotesi in laboratorio, soprattutto per quello che è l'interesse predominante poi in questo libro, perlomeno nell'ultima fase del suo percorso di ricerca, cioè utilizzare gli esperimenti per capire come emerge la cooperazione sociale, ma anche per la straordinaria umiltà e rispetto alla lezione dei classici e rispetto appunto alla razionalità ecologica, alla razionalità del sistema, al modo in cui l'ordine spontaneo ci aiuta a superare quelli che inevitabilmente sono l'iperattenzione al presente e i difetti. Ecco, in questa prospettiva io vorrei chiedere al professor Guala se non è in fondo sbagliato considerare quello che ogni tanto viene chiamato un fallimento del mercato, quello che invece è un fallimento di chi interpreta il mercato. Sì, innanzitutto è sbagliato parlare di il mercato come se fosse una cosa sola, ecco. Questa è un'altra delle grandi lezioni dell'economia sperimentale, che ci ha insegnato che le istituzioni sono importanti e che i mercati possono essere regolati da tante diverse istituzioni, quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è, sì certo, gli economisti sbagliano quando interpretano il funzionamento dei mercati, sbagliano alle volte anche perché si pretende troppo da loro. Adesso non è che io voglio difendere la categoria a tutti i costi, però voglio dire, in alcuni casi come la crisi che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, c'erano dei problemi strutturali di mancanza di informazioni, nel senso che le informazioni per esempio sui cosiddetti junk bonds, su quanti ce n'erano in circolazione e così via, non erano disponibili, e quando mancano i dati è impossibile anche fare delle previsioni accurate riguardo al futuro. Quindi appunto, semmai il problema è quello di disegnare delle istituzioni, quindi convincere anche i politici e il pubblico nelle grandi democrazie che i mercati vanno regolati in modo tale da essere più trasparenti, in modo tale che l'informazione circoli in maniera migliore, e questo aiuta i mercati a funzionare meglio, aiuta tutti noi a vivere meglio e anche gli economisti magari a fare delle previsioni un pochino più accurate. Più accurate, indubbiamente. Ecco, è forse significativo leggere nelle prime righe, nelle prime pagine del libro di Vernon Smith una citazione di Hume, in cui si dice: quando abbandoniamo il nostro studio e ci impegniamo nelle faccende della vita comune, le conclusioni della ragione sembrano svanire, come i fantasmi della notte all'apparire del mattino, e c'è difficile conservare perfino quelle convinzioni che avevamo raggiunto con difficoltà. Quindi è un po' un mettere sempre in discussione, le teorie e guardare invece alla realtà e cercare in una continua interpretazione della realtà anche le chiavi di volta per capire, se non per prevedere il futuro, professor Guala. Sì, sono contento che abbia citato Hume, il più grande filosofo di tutti i tempi, ma penso che sia una buona citazione anche per capire appunto l'opera di Vernon Smith, dal quale siamo partiti, che è un economista particolare nel senso che è un economista che ha cominciato studiando ingegneria, mentre oggi molti economisti sono in realtà dei matematici, no? Smith è uno scienziato vero che è partito proprio da un interesse per capire come funzionano le cose, come funzionano i mercati, senza affidarsi necessariamente a teorie matematiche complicate, ma anzi cercando di metterle in discussione e cercando di studiare in laboratorio, appunto, con delle semplici situazioni che siamo in grado di manipolare e di interpretare meglio, come funzionano queste istituzioni così importanti che regolano la nostra vita e ci condizionano anche così tanto. Ecco, grazie professor Guala per averci illustrato e averci fatto venire un po' di curiosità per questo libro di Vernon Smith, La razionalità nell'economia tra teoria e analisi sperimentali, edito dall'Istituto Bruno Leoni, in cui abbiamo avuto anche ospite il direttore Alberto Mingardi. Quale sarà il libro di cui dovremo parlare in una delle prossime occasioni, Mingardi? Assieme con il libro di Vernon Smith abbiamo avuto il piacere di mandare in libreria anche Corporate Governance, quando le regole falliscono, di Jonathan Macy. Jonathan Macy insegna a Yale, è uno dei più grandi studiosi al mondo di temi legati al diritto societario. Questo libro illumina in maniera veramente nuova quelli che potremmo definire i problemi politici all'interno dell'impresa, le questioni legate per l'appunto alla governance societaria, ed è anche un saggio che può aiutarci molto a capire che cosa non ha funzionato sul piano della governance societaria, dando un contributo ad illuminare le cause della crisi finanziaria. Grazie ad Alberto Mingardi, grazie a Francesco Guala, grazie a Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, potrà essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.